effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, ciao a tutti e tutte i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siete sintonizzati in onde medie o magari ascoltandoci in streaming o forse in replica o addirittura attraverso un podcast, ma insomma questa è Radio Wombat e questo è lo spazio della stampa rassegnata, trasmissione informativa della nostra radio nella quale abbiamo da ormai più di un anno, perché lo abbiamo superato, come continuità della trasmissione, cercato di dare spazio a istanze del territorio e anche a formulare una critica il più possibile puntuale e settimanale a quello che succede insomma nella nostra provincia, con una particolare attenzione e predilezione ad alcune notizie che riguardano principalmente le vertenze popolari legate all'opposizione alla costruzione del nuovo aeroporto di Peretola e anche alla costruzione dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Case Passerini, che sarebbe, come sappiamo, l'inceneritore di Firenze. E nella trasmissione, come vi sarete accorti se siete degli ascoltatori diciamo un po' abituali, ho cominciato provare a dare maggiore spazio anche attraverso delle interviste e degli interventi a volte più rapidi, a volte un po' più organici, su alcune tematiche che ricorrono nelle cronache giornalistiche e quindi nel lavoro di critiche, di demistificazione, se così lo possiamo chiamare, che ci siamo insomma presi la briga e la responsabilità di svolgere all'interno della radio. In questa settimana torniamo un po' tra virgolette al format classico che chi ci ascolta da tempo ha conosciuto per un lungo periodo nella Radio Wombat e nella stampa rassegnata, che è quello della mia voce parlante che guarda gli articoli di giornale e li commenta con voi, incrociandoli per il più possibile laddove ci riusciamo e mi riesce, insomma, alle esperienze nelle quali siamo e sono più direttamente impegnato, che come ho detto sono quelle vertenze che vedono la piana battersi in difesa dell'ambiente, del territorio e della salute da molti anni contro l'inceneritore e l'aeroporto. Questa settimana appunto non possiamo esimerci da fare un focus che per certi aspetti rappresenterà anche un riassuntone delle puntate precedenti, nelle quali come vi sarete accorti abbiamo dato spazio ad altre cose. Abbiamo parlato di tramvia con Alberto Ziparo dell'Università di Firenze nella puntata precedente, abbiamo parlato di acqua, di servizi, tubi rotti e polemiche tra Publiacqua e Nardella nella puntata ancora precedente, insieme anche a un intervento di Jacopo sull'assemblea autoconvocata dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative e dei servizi socio-educativi. Insomma, questa settimana torniamo un po' a questo nostro format. Ci torniamo per ovvie ragioni, perché chi guarda la stampa anche distrattamente non avrà potuto fare a meno di notare l'insistenza e la ricorrenza della questione aeroporto, della questione pista e di tutta la manfrina e sponda mediatica che i giornali del nostro territorio, ovviamente quelli che riportano delle cronache locali, e dicendo questo parliamo quasi esclusivamente ormai di Repubblica, del Corriere Fiorentino e dell'immancabile Nazione, dello spazio, enorme spazio mediatico che è stato dato, è stato concesso e continuerà ovviamente ad essere tale rispetto appunto alle mobilitazioni, se così le possiamo chiamare, di carta o alle prese di posizione, agli interventi, alle lettere aperte, di tutto quello che insomma il fronte del sì chiamiamolo così, che da tempo ormai si è costituito e che ha preso una forma un po' organizzata in un soggetto, insomma, che si è costituito il 7 maggio scorso in un primo convegno al Palaffari, che è il famoso Comitato per il Sì all'aeroporto. Comitato che essenzialmente vede protagoniste le grandi associazioni di categoria del territorio, quindi Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio e diciamo altre associazioni. Vede anche un ruolo non di secondo piano di un sindacato confederale più degli altri, che è la CISL, e insomma vede diversi soggetti, grandi marchi, grandi imprenditori. Insomma, come ho detto, lo spazio mediatico che gli è stato concesso è molto forte, e quindi la puntata di questa settimana sarà, insomma, in qualche modo uno sguardo attraverso gli articoli di giornale per fare una sorta di riassuntone, visto che nelle ultime puntate specificatamente di aeroporto non ne abbiamo quasi mai parlato, fatto salvo per l'intervento del comitato di Signa fatto dalla nostra amica Manuela, che appunto ci ha un po' illustrato quello che è successo attraverso un presidio e attraverso il lavoro del comitato, che oltre ai problemi del traffico automobilistico si sta battendo anche contro la compensazione e la prostituzione urbanistica che il sindaco Cristianini, non casualmente del Partito Democratico, ha fatto, portando anche il parere di compatibilità del suo comune alla Conferenza dei Servizi. Scusate, certamente, diciamo, mi scuso perché magari sono moltissime le cose, a volte le diamo un po' per scontate, mentre sarebbe buono non farlo, e diciamo cercherò di mantenere un tono e una, come dire, un tono informativo che possa soddisfare un po' tutti, sia quelli che ci ascoltano con regolarità e quindi su alcune cose sono tra virgolette edotti, sia quelli che non lo sono. Ho citato la Conferenza dei Servizi e evidentemente lo spazio giornalistico di cui stiamo discutendo e prendiamo un po' in analisi parte anche da questo dato di fatto, cioè il fatto che martedì 29 di gennaio, quindi proprio il martedì della settimana che stiamo prendendo in analisi, è stato il giorno in cui gli enti e tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, soggetti che sono molti, moltissimi, si va da alcuni comuni della Piana, non tutti, ad alcuni ministeri interessati, a molte aziende pubblico-private interessate alla gestione dei servizi del territorio, so, per esempio la Consiac, per esempio Alia, oppure il Consorzio Medio Valdarno, o insomma molti altri enti pubblici e privati e o pubblico-privati che partecipano alla Conferenza dei Servizi, che c'è stata per l'appunto martedì 29 a Roma, mi pare sia già il terzo appuntamento che anche questa volta slittato stavolta molto poco, perché la prossima Conferenza dei Servizi si annuncia per il 6 di febbraio. In questa data della Conferenza dei Servizi è stata però anticipata lunedì 28 da, appunto, da una manifestazione, da un momento, da una ennesima, no in realtà non ennesima, diciamo la seconda kermesse organizzata dal Comitato per il Sì, che ancora una volta ha visto l'utilizzo del Palaffari come, diciamo, come fortezza e come cassa di risonanza mediatica e come luogo dell'appuntamento per questo flash mob, così è stato definito. Se ne avevamo un po' parlato anche nelle scorse puntate, se non in maniera diretta e approfondita, quantomeno come diciamo tenendo sempre un occhio attento e una finestra aperta su questi accadimenti, era da tempo che all'interno, diciamo, del fronte del Sì si discuteva la possibilità di organizzare una manifestazione. Certamente ci ricorderemo tutti la manifestazione a novembre organizzata sulla spinta delle madamine, che ha messo insieme questo soggetto SITAV, che in qualche modo ha costituito una prima uscita e in qualche modo un modello di riferimento per tutte quelle forze sviluppiste che vedono nella necessità, o perlomeno quella che loro chiamano necessità, di ribattere e di mantenere un livello di infrastrutture e grandi opere che secondo loro sono chiaramente il viatico per la redistribuzione della ricchezza e dell'occupazione, e certamente questo, insomma, è l'aspetto, così, di vetrina e retorico, o come si, oggi spesso si dice, di storytelling del, diciamo, dei padroni, molto più veritieramente dietro a questa insistenza per la infrastrutturizzazione del paese ci sono grandissimi interessi di aziende del tondino, del cemento e di tutto quello che ad esse è collegato. E appunto ci ricorderemo novembre e a Firenze in qualche modo era stata presa in considerazione la possibilità di organizzare una manifestazione in quei termini che provasse a mettere in piazza la gente nel tentativo di dare vita e un momento di visibilità a una strategia corporativa che i padroni della città stanno tentando da tempo, perlomeno da quel 7 maggio di cui parlavo, che è stato il momento fondativo del Comitato Si Aeroporto. Cosa intendiamo con strategia corporativa? L'idea che intorno a questo Si Aeroporto si raggruppi una pletora di soggetti che va da Confindustria fino ad alcuni soggetti sindacali e la cosiddetta gente comune che diciamo è rappresentata, usando il termine rappresentata tra molte virgolette, da un gruppo di abitanti, quello che, di cui abbiamo parlato più volte, il gruppo Viva la Nuova Pista, che è di fatto un gruppo Facebook in qualche modo attivo un po' anche fuori dalla rete, sono comparsi alcuni striscioni e insomma sono sempre presenti in questi momenti, che però in qualche modo vive di luce riflessa e marcia a braccetto con il potere politico cittadino, cioè quello del PD guidato da Nardella, a braccetto e di luce riflessa anche da parte delle associazioni di categoria. Sono abitanti di Peretola, Quaracchi, Brozzi, o perlomeno sono sedicenti tali, che sostengono la necessità di spostare l'orientamento, cambiare l'orientamento della pista per evitare e per impedire i sorvoli che attualmente ci sono sui quartieri di Brozzi, Peretola, Le Piagge e soprattutto Quaracchi, fenomeno che conosciamo da molto tempo e molti anni e rispetto al quale niente hanno fatto né i poteri imprenditoriali né tantomeno quelli politici cittadini o regionali o della città metropolitana. E quindi insomma con molti dubbi guardiamo a questi cittadini che però chiaramente dal punto di vista mediatico fanno sempre scalpore, perché anche se c'è un omino solo col cartello al collo e poi ci sono 99 funzionari tra politici, imprenditori e addetti ai lavori con la giacca e la cravatta, il signore col cappello di lana e il cartello appeso al collo fa sempre abbastanza popolino e merita i favori della cronaca e quindi insomma merita di essere fotografato e riportato su quasi tutti i giornali. Come avevo promesso, vorrei dare con voi un'occhiata ai giornali perché chiaramente ci offrono sempre degli spunti di riflessione, anche una breve e piccola lettura. Più o meno i giornali di questa settimana si sono tutti molto assomigliati nei titoli, nei sottotitoli, nei contenuti, perché di fatto riportano le dichiarazioni dei personaggi più in vista, degli showman, dei frontman del fronte del sì, quindi Nardella, Bassilichi per la Camera di Commercio, Salvadori per Confindustria, poi ci sono i politici della, diciamo, della destra che litigano tra sì e no, chi è più vicino alla Lega, chi è più vicino ai 5 Stelle, ci sono poi le dichiarazioni dei 5 Stelle, ci sono le dichiarazioni del RSA, cioè delle rappresentanze sindacali aziendali di Peretola, c'è tutta una serie di prese di posizione, per cui insomma i giornali si assomigliano nei contenuti e nei titoli e non merita prenderli in analisi tutti, ma alcuni, non so, diciamo alcuni ha alcuni per tutti, insomma chiudiamola qui, se non la faccio lunga e vi faccio perdere inutilmente tempo con ciance che non servono. Quindi i giornali del 28 sono stati appunto simili nei contenuti e guardiamo alcuni titoli. Repubblica titola: Peretola, messaggio al governo, un no sarebbe solo politico. Da Manzi a Ricci, tanti all'iniziativa per il sì all'aeroporto, Nardella giù le mani da Firenze. Chiaramente Nardella lo ripete da tempo, Giù le mani da Firenze è diventato uno dei suoi slogan, riferendosi con questo molto probabilmente principalmente a alcune posizioni del governo che ancora restano assolutamente non chiare, che però insomma hanno fatto pensare nel tempo alla possibilità di uno sviluppo ulteriore dell'aeroporto di Pisa piuttosto che dello scalo fiorentino. Questo erano titolo e sottotitolo di Repubblica. Poi c'è il contenuto, c'è una grande foto di questo palazzo, della facciata del Palaffari, nella quale un gruppo di quattro rocciatori, scalatori, insomma, per, diciamo, uomini con dotati di corde, hanno srotolato degli striscioni che probabilmente bastava semplicemente slegare alla cima, ma insomma hanno preferito questa baracconata, perché di fatto baracconata è stata, con gli imprenditori alle finestre nel palazzo di vetro e hanno detto tutti un centinaio, ma io penso che se togliamo davvero i giornalisti che erano intervenuti proprio per riprendere l'evento e qualche infiltrato normale che è andato a curiosare, probabilmente non arrivavano davvero neanche a 100. Non tanto perché 100 o 150 o 90 o 80 faccia la differenza, ma sempre per far notare, diciamo, i favori di cui godono le cronache. Non casualmente, come dicevo, dentro all'articolone poi c'è il protagonista inatteso: da Quaracchi in piazza, toglieteci gli aerei, ci passano sulla testa, con la foto di questo signore che è, cioè, diciamo, la persona normale, ecco, il signore anziano con i capelli bianchi, il cappello e il cartello scritto a mano al collo. Andiamo avanti, e oggi è il giorno del verdetto, gli scenari al tavolo di Toninelli. Questo è un articolo invece del Corriere Fiorentino del giorno successivo, a lunedì, cioè del martedì 29, giorno stesso della conferenza dei servizi. Ovviamente il giornale esce la mattina. La conferenza servizi comincia non prima delle 10 e quindi il titolo non può riportare quello che è accaduto. Il sì farebbe partire i lavori, il no del ministero porterebbe tutto al premier Conte. Poi c'è una simpatica infografica dove si vedono tutti gli enti che partecipano alla conferenza dei servizi e indicati con il colore verde, con il colore rosso o con il colore giallo, quelli che sono già a favore, ovviamente semaforo verde, quelli che sono e che porteranno un no alla conferenza dei servizi, come hanno già fatto nei precedenti appuntamenti, che come sappiamo sono il comune di Sesto, il comune di Campi e il comune di Prato, e poi diciamo il vero e proprio ago della bilancia, che sono il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero delle Infrastrutture, i due ministeri che in mano appunto tra Lega e 5 Stelle sono il vero e proprio ago della bilancia, i quali hanno espresso sempre posizioni dissonanti, nel senso che alle dichiarazioni prima delle elezioni, alle dichiarazioni di Giannarelli dei 5 Stelle in Consiglio regionale, alle dichiarazioni di alcuni pezzi della Lega Toscana, alle dichiarazioni di Toninelli, poi in realtà non è conseguito un no secco dentro la conferenza dei servizi, ma un atteggiamento che, come abbiamo più volte rilevato, è stato teso a una prosecuzione dei lavori. Sappiamo, rispetto alla procedura di conferenza dei servizi, per esempio, che i 5 Stelle hanno partorito questo strumento dell'analisi costi-benefici, strumento che a noi non convince particolarmente e anzi riteniamo essere ancora più debole delle note VIA, cioè delle valutazioni impatto ambientale, che a sua volta è più debole della VAS, cioè della valutazione ambientale strategica, perché nell'analisi costi-benefici le valutazioni vengono date quasi esclusivamente su aspetti economici, e quando diciamo economici ci riferiamo essenzialmente ad aspetti monetario-finanziari, tenendo fuori da queste valutazioni moltissimi, cioè praticamente tutti gli aspetti ambientali e sanitari, che invece sappiamo avere non solo un'importanza e una valenza di per sé assoluta e cruciale nella vita delle comunità e insomma, e degli abitanti del pianeta, ma hanno poi in effetti anche una contropartita monetaria, perché per esempio pensiamo alla salute: quando poi la gente si ammala, questo è anche un costo, e in un sistema che tutto sommato, pur garantendolo sempre meno, utilizza la sanità pubblica, è un costo anche economico. Quindi alcune e molte delle malattie croniche che sono proprio legate agli aspetti di inquinamento dell'aria, all'aumento degli inquinanti nel ciclo alimentare o nel ciclo del latte materno, per esempio, sono proprio causa di malattie croniche, malattie che non danno la morte immediatamente, ma che appunto hanno una cronicità e una durata nel tempo che mette poi seriamente alla prova anche il sistema sanitario, anche da un punto di vista economico. Eppure sono tutti parametri, mettiamola così, che non vengono computati nella cosiddetta analisi costi-benefici. Ma insomma, questa foglia, questo strumento dell'analisi costi-benefici è diventato un po' anche la foglia di fico con la quale i 5 Stelle, una volta messo il sedere sulle poltrone, hanno fatto melina che stanno facendo anche rispetto all'aeroporto di Firenze. È possibile uno scenario nel quale la prossima conferenza dei servizi, che come ho detto è stata riaggiornata al 6 di febbraio, possa addirittura uscire prima della data del 6 febbraio l'analisi costi-benefici, e quindi vediamo cosa succederà. È possibile che ci sia un sì in conferenza dei servizi dei ministeri in mano a 5 Stelle e Lega, eppure però ci sia poi una analisi costi-benefici che non consente la prosecuzione e lo svolgimento reale dell'opera, cioè della costruzione dell'aeroporto. Quindi gli scenari sono molteplici, il casino anche amministrativo ovviamente resta enorme e ha sempre caratterizzato e contraddistinto questa vicenda, come non potrebbe essere, viste anche le dimensioni dello sbancamento, della costruzione, di tutto quello che riguarda un aeroporto con annessi e connessi. Ma insomma, le cose vanno avanti e andiamo avanti anche noi nel guardare altri articoli. Ma non prima di aver fatto una brevissima pausa musicale con un pezzo di 4, 5, 6 anni fa, ormai Mezzo Sangue. Mezzo sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sappia amare. Questo è mezzo sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ho scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Mezzo sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sappia amare. Questo è mezzo sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ho scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Mezzo genio, mezzo pazzo, mezzo sangue. Claustrofobica sociale, accade quando pensi in grande. Sai, disordinato per natura, posto solo la coscienza. Perché il resto l'ho lasciata a chi non pensa. Pensa, condisco questa merda con bottiglie e benza. Hai il coraggio da un pizzico di incoscienza. Lascia a voi il mestiere più vecchio e tengo il più raro. Dirò quello che non dice nessuno, che ognuno pensa. Pensa, cercavi un titolo, mai stato un divo. Mai fatto un idolo nessuno, sempre stato schivo. Sul muro il letto di un fakiro come poster. Mi ricorda di essere scomodo e pungente ogni volta che scrivo. Amico, che t'aspettavi canzoncine te? Ascolta i soliti cazzoni senza rime, man. Io non c'ho voglia di far gara a chi fa il king del rap. Tanto qua mi sentono in 3000, capiscono il nome. Mezzo sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sappia amare. Questo è mezzo sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ha scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Mezzo sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sappia amare. Questo è mezzo sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ha scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Io sputo il sangue da quando sono nato. C'ho il fuoco in testa come Jack o Lantern. Autoalimentato da sta fotta, il mio nome è mezzo sangue. Sono così tanto un personaggio che ho firmato per la Marvel. Sai, sta vita è un calcio di rigore, Dio. Spero che non sbaglio, ma indosso la maglia di Robbie Page. Qua non è più il 94, è 10 anni prima. E se non sai di cosa parlo, fai la fila. Non c'è una rima che capiscano. Fingono che tutto vada bene, poi smentiscono e se glissano. Fissano concetti che hanno in testa, non in petto. Glielo leggi dalle facce che non sanno ciò che hai detto. S'abbissano come gli squali, animali senza palle. Prede di mezzo sangue come maiali. E scrivo barre per nessuno, yo, Sandy. Parla il vento del West come Percy Shelley. Nome e mezzo, sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sa più amare. Questo è mezzo, sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ha scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Mezzo, sangue, non te lo scordare. Prendo le distanze, un mondo che non sa più amare. Questo è mezzo, sangue, tu ricorda il nome. Ce l'ha scritto in cicatrice a pelle come un'incisione. Ecco un altro articolo del sempre del di lunedì 28, unito il mondo del lavoro. Peretola, sì alla nuova pista. Questo direi articolo da segnalare come altamente ideologico, perché titolare Unito il mondo del lavoro ci sembra francamente, insomma, al di là del fatto che noi non ne facciamo un mistero e anzi lo rivendichiamo l'essere una radio partigiana, e in questo caso partigiana del no, ma insomma titolare Unito il mondo del lavoro solo perché un sindacato confederale certamente rappresentativo e sappiamo con a nostro rammarico in qualche modo ancora radicato fra i lavoratori e la classe lavoratrice, che è la CISL, partecipa alla giornata. Dire che è unito il mondo del lavoro ci sembra francamente uno sproposito anche per dei liberali, e non c'è bisogno, insomma, di arrivare a posizioni a posizioni socialisteggianti, insomma. Alla vigilia della riunione definitiva a Roma per il via libera, flash mob di tutte le categorie. Lo leggo un attimo perché fa diciamo una buona sintesi di cosa è successo per l'appunto il 28 mattina. Più di 100 persone hanno partecipato al flash mob del comitato SIA Aeroporto, presieduto dal presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi. Alla manifestazione c'erano membri di associazioni di categoria e sportive, imprenditori, artigiani, agricoltori, esponenti del mondo della cultura e del volontariato, oltre alla CISL e a politici e amministratori, tra i quali il sindaco Nardella. L'iniziativa è stata programmata alla vigilia della conferenza dei servizi di oggi. Quindi, appunto, perdonatemi, perché l'articolo, avendo detto che è la conferenza servizi di oggi, è di martedì e non di lunedì, ma insomma il tono non cambia perché sempre di quello parla. Acrobati, altra pagina, sempre Repubblica, acrobati sul palaffari per dire sì alla pista. Si riferisce a quelli che come ho detto, hanno srotolato questi due striscioni, quattro personaggi che probabilmente avranno pagato, insomma, mi voglio augurare che non fossero lì perché ci credono davvero, ma che abbiano preso un piccolo appalto, e quindi questi acrobati hanno srotolato gli striscioni sul palaffari. Sottotitolo: dal sindaco al presidente della Camera di Commercio, dagli industriali ai sindacati, al sovrintendente del maggio. In tanti partecipano al flash mob per lo sviluppo dell'aeroporto. Rinunciare andrebbe solo a vantaggio di Bologna. Questa è una cosa interessante che andiamo poi a commentare trovandola nell'articolo. Articolo che prosegue e in alcune parti salienti ci dice: si calano dal tetto del palaffari davanti a più di 100 rappresentanti della Firenze operosa. Mi piace questa definizione, che voglio sottolineare enfatizzandola: Firenze operosa, quindi non è propriamente del lavoro, non è diciamo una categoria, quella di operosa, che così fa pensare più al mondo animale, quindi per esempio alle api piuttosto che alle nostre società, che come sappiamo sono attraversate da conflitti di classe e interessi e ovviamente diversi. Però proprio a dimostrazione della strategia corporativa di cui dicevamo ormai qualche decina di minuti fa all'inizio della trasmissione, la definizione di Firenze operosa è una definizione interessante e pericolosa, però insomma un uso della lingua che non è mai casuale. Si parla di Firenze operosa proprio per evitare di dover dire da che parte del lavoro si sta, se dalla parte di coloro che se ne appropriano, e quindi che noi, quelli che noi continuiamo a definire padroni, cioè la Confindustria, la Camera di Commercio e la Confcommercio, o se dalla parte di coloro che il lavoro lo versano, lo danno, nelle forme che, come ci ricordava il vecchio Marx molti e molti anni fa, si dà nelle forme in qualunque forma, insomma, dispendio di muscoli, nervi o cervello. Qualunque esso sia, però, il lavoro viene erogato da alcuni, mentre altri se ne appropriano. Che poi l'attività di appropriarsi del lavoro altrui possa in qualche modo costituire anche un lavoro è altra cosa rispetto al lavoro salariato, rispetto al lavoro subalterno e al lavoro per come appunto diciamo lo intendiamo anche volgarmente quando si parla di lavoro. Quindi la Firenze Operosa. Chi è questa Firenze Operosa? Associazione di categoria, sportive, imprenditori grandi e piccoli, artigiani, agricoltori, cultura, volontariato. C'è anche la CISL con le bandiere. Ci sono politici e amministratori. Ovviamente c'è il sindaco Nardella. Poi più sotto, diciamo la parola passerà al Consiglio dei Ministri solo se il MIBACT, Ministero dei Beni e Attività Culturali, farà obiezioni come nella precedente seduta, nonostante Regione Signa e Lastra Signa abbiano tolto il pretesto, anche se tra virgolette, insomma, è sempre una frase significativa, cioè praticamente hanno tolto il pretesto per dire sì, perché chiaramente chi dice no all'aeroporto dice dei no pretestuosi, no? Non ci sono secondo loro motivazioni in qualche modo vere o che meritano la dignità di essere argomenti, sono tutti pretesti e quindi per fortuna che il comune di Signa, la Strassigna e la regione gli hanno tolto il pretesto. Questo pretesto sarebbe, come abbiamo raccontato anche in un approfondimento nella puntata con Manuela del Comitato di Signa, proprio la questione della compensazione ambientale dello spostamento del laghetto di Peretola, che appunto dalla sua sede attuale, che è di fatto diciamo tra il polo scientifico e la coda dell'attuale pista aeroportuale di Peretola, dovrebbe essere tombato dalla nuova pista di 2400 metri parallela al raccordo autostradale ed essere compensato a Signa. Compensazione che, oltre ad essere un assurdo logico, perché si pretenderebbe compensare una sistema ecologico come quello di un lago, nel quale ci sono non solo aspetti di flora ma anche faunistici, anche di pregio, perché appunto ci sono insomma gli grandi uccelli migratori, cavalieri d'Italia, soprattutto i fenicotteri rosa, che in alcuni periodi dell'anno danno sfoggio di sé nel laghetto di Peretola, e considerandoli semplicemente come uno stock di terra e acqua che si può ripiazzare come si ripiazza, non lo so, un cuscino, un divano o una sedia dentro casa. Quindi la compensazione, che di per sé è un assurdo al quale noi continuiamo a ribadire un'opposizione di principio, c'è poi anche l'aspetto pratico, perché questa compensazione è entrata in conflitto con lo sviluppo e la possibilità di realizzazione di una bretella di collegamento urbano tra diciamo nella zona di Scandicci Signa, che permetterebbe di bypassare la viabilità e potrebbe non sovraccaricare il centro storico di Signa, che come abbiamo sentito nell'intervista con Manuela, alla quale vi rimando come approfondimento e come così come link per capire meglio quello che sta succedendo lì, è veramente una situazione molto molto molto pesante dal punto di vista degli inquinanti a ridosso delle abitazioni del centro. Quindi insomma, siccome la regione e il comune di Signa, capeggiato dal sindaco Alberto Cristianini, hanno trovato un accordo per una nuova bretella di collegamento e quindi sembrerebbe tutto risolto dal punto di vista dell'accettazione del comune di Signa di questa compensazione legata al sistema idrico della piana, il pretesto non c'è più. Mi fermo qui rispetto alla questione della bretella e di Signa, rinviando ad ulteriori approfondimenti nelle nostre trasmissioni, ai nostri microfoni e agli sviluppi che ci saranno nel tempo, perché la cosa più probabile che appare più evidente, più probabile è che Regione e Comune di Lastrassigna abbiano fatto le corse per poter raccontare che tutto è a posto e portare un sì a questa conferenza dei servizi. La cosa più vera è questa, con molta probabilità però dei problemi sia amministrativi sia legali sia di vera e propria compatibilità tra le eventuali compensazioni e la bretella ci sono e ci saranno anche in futuro. Quindi sospendiamo questo argomento e continuiamo a guardare l'articolo che continua a dire: dopo il flash mob, cui arriva anche la solidarietà del comitato Sì Torino va avanti, affidato a Vincenzo Di Nardo, e questo era un elemento da sottolineare perché appunto si va costituendo in qualche modo con procedure che assomigliano a quelle che in questi anni abbiamo visto appartenere proprio ai movimenti, ai comitati e alle reti di auto-organizzazione sociale e politica degli abitanti e delle classi subalterne e del lavoro. Questa solidarietà lega Torino, Firenze e anche la Lombardia, come vedremo più avanti con un intervento anche dei rappresentanti di Asso Lombarda. Comunque, insomma, non poteva mancare anche questo attestato di solidarietà da parte di Torino. Torino che ricordiamo essere stata la città in cui si è sperimentato a fine novembre la manifestazione Sì Tav, che poi di fatto era una manifestazione sì tutto, sì PIL, sì sviluppo, sì crescita, sì storielle e sì, insomma, e siate felici così. Più avanti l'articolo dice che Nardella rinforza, e questo mi sembra interessante leggerlo, dice Nardella, insomma, il 16 marzo parte il People Mover, stazione di Bologna, Marconi, e in tre quarti d'ora si arriverà da Firenze al check-in dell'aeroporto di Bologna. Senza Firenze, Bologna diventerà l'aeroporto del centro Italia, altro che Pisa. Mi soffermo un attimo su questo passaggio perché lo ritengo particolarmente interessante, perché ci dà la dimensione di alcune cose che nel tempo abbiamo detto ma che mi sembra, insomma, sempre utile ribadire. Nella discussione che si è andata creando, e o meglio per come l'hanno voluta mettere, per come la continuano a sviluppare, non esiste più alcun argomento razionale. Di fatto, insomma, questa pista va fatta e chi non la vuole è contro il progresso, contro la crescita, contro, non lo so, contro l'ordine naturale delle cose, benedetto da Dio. Quindi siamo a un livello di discussione proposta dai mainstream, dai politici e dall'imprenditoria veramente molto molto molto basso e soprattutto direi del tutto irrazionale, e questa irrazionalità è dimostrata, credo, in modo plateale da questa affermazione di Nardella. Cioè, qualunque persona, credo, razionale pensa a un paese e tenta di creare delle, ammesso anche che vogliamo ragionare in termini di necessità delle infrastrutture, e noi certamente non siamo i retrogradi di cui veniamo accusati con continuità, ci pensiamo certamente alle infrastrutture, non siamo il partito delle caverne, non diciamo no agli aeroporti o agli aerei in quanto tale, ma andiamo a vedere le cose per come si sviluppano. Ebbene, si vuole necessariamente un aeroporto con una pista di 2400 metri a Firenze che porti il numero di passeggeri, quindi atterraggio in decollo, a 4 milioni e mezzo l'anno, quando abbiamo un aeroporto già abbastanza grande, perché adesso Pisa è già più grande di quello di Firenze, a 45-50 minuti di strada, che è Pisa, come stiamo dicendo. E poi c'è Bologna, e quindi Bologna che a sua volta raggiungibile in treno in una cinquantina di minuti, e chi ha abbastanza tempo per poterlo ricordare si ricorderà con quanta retorica e con quanta forza fu spinto tra gli anni 90 e gli anni 2000 la costruzione della linea alta velocità Firenze-Bologna, sventrando il Mugello con danni che conosciamo da un punto di vista ambientale veramente fortissimi, soprattutto sulle falde e sulle sorgenti sotterranee, quindi sul sistema idrografico del Mugello. Perché insomma bisognava collegare Firenze e Bologna col treno ad alta velocità, perché non ci si poteva mettere 1 ora e 5, ma bisognava per forza risparmiare 10 minuti. Lo sventramento che è stato fatto con l'alta velocità nel Mugello ci ha permesso di risparmiare quei 10 minuti di viaggio. E insomma, ora che Bologna e Firenze di fatto sono più vicine, però Firenze deve per forza avere questo aeroporto, cioè non può usare, non, cioè chi viene a Firenze non può decollare o atterrare da Bologna o da Pisa, che sono entrambe distanti meno di un'ora, bisogna che atterri per forza qui. Quindi quando si parla appunto di infrastrutture, non se ne parla in termini propriamente di infrastrutture, quindi volendo anche stare nel loro campo di ragionamento e mettendo da parte tutti gli aspetti ecologici, mettendo da parte tutti gli aspetti legati all'utilizzo delle risorse pubbliche e volendo ragionare dal loro punto di vista, si perde completamente il senno, perché nel momento in cui un aeroporto è più vicino o più facilmente raggiungibile, gli si vuole fare la guerra perché bisogna avercelo per forza in città. Quindi questo dà il segno del provincialismo, del campanilismo, di quello che mi sono così permesso di descrivere come un atteggiamento di suprematismo, un suprematismo bottegaio che ormai però purtroppo accomuna tutte le città, perché gli stessi ragionamenti li fanno i gestori dell'aeroporto di Bologna, gli stessi ragionamenti li fanno i gestori dell'aeroporto di Roma, dell'aeroporto di Bergamo o dell'aeroporto di Napoli e via discorrendo, in un paese che di fatto è un fazzoletto, perché che come sappiamo l'Italia non è certo gli Stati Uniti, non è la Russia, non è l'interità dell'Europa, ma è un fazzoletto, c'è di fatto un aeroporto intercontinentale ad ogni ora, perché se voi partite dal nord Italia in ogni ora di viaggio in macchina da una città all'altra trovate un aeroporto, cominciano a diminuire al sud per ragioni insomma che conosciamo, e forse appunto siamo veramente al paradosso nazionale, perché al sud, dove in qualche modo qualche aeroporto renderebbe il paese anche più unito e più raggiungibile, gli aeroporti mancano mentre sovrabbondano nel centro nord Italia. E questo argomento di Nardella ritengo sia veramente la dimostrazione di quanto questo dibattito sia scollato dalla realtà e tutto legato a elementi economici e di sviluppo capitalistico e di accaparramento delle risorse, perché appunto Nardella è spaventato e utilizza questo argomento per terrorizzare la gente del fatto che oggi con il People Mover praticamente si può andare a salire a Firenze in treno e non scendere a Bologna per poi scendere e prendere il bussino che ci porta all'aeroporto, ma prolungando la linea ferroviaria si arriva direttamente, salendo da Santa Maria Novella o da Campo di Marte o da Rifredi, direttamente al binario dell'aeroporto di Bologna, e quindi in soli 45 minuti si potrebbe partire o riarrivare a Santa Maria Novella, e questo per Nardella è un problema. È un problema perché rende certamente l'aeroporto di Bologna in qualche modo appetibile come scalo per chi vuole venire a Firenze o per chi da Firenze vuole partire per altre destinazioni, e questo anziché essere una ricchezza è un elemento citato come positivo, perché appunto ci permetterebbe di risparmiare come paese Italia un altro aeroporto, diventa per Nardella il problema dei problemi, perché diventa un problema di competizione tra città. Se tutte le città sono in competizione una con l'altra, qual è l'idea di sviluppo che abbiamo? Che ogni città si deve collegare con tutto il resto delle città del mondo attraverso un proprio aeroporto intercontinentale? Quindi quello che fa Firenze, perché non dovrebbe farlo Siena? Perché non dovrebbe farlo Perugia? Perché non dovrebbe farlo, non lo so, Urbino? O perché non dovrebbe farlo Matera? Qualunque altra città d'Italia e del mondo dovrebbe, seguendo questa logica, avere il suo aeroporto intercontinentale per stare linkata al resto del mondo. Questa è la vera e propria follia di questo paese, la vera e propria follia capitalistica, che insomma perde ogni riferimento con la realtà oggettiva per stare su un piano di totalmente scollato, dove si ragiona di tutto e di niente, ma essenzialmente di affari. Chiudo questa, diciamo, questa lunga parentesi, ma che mi sembrava importante perché stiamo comunque parlando di riassetto di infrastrutture, tenendo ovviamente conto che tra gli argomenti citati, o perlomeno tra gli argomenti di facciata del Comitato per il Sì, c'è quello dell'utilità dell'aeroporto. Quindi vogliono a tutti i costi smarcarsi e allontanare da sé le critiche che l'aeroporto sia fatto per soddisfare le necessità di una elite, elite che è quella dei gestori, cioè di Toscana Aeroporti, che poi, come sappiamo, ormai è per la maggioranza posseduta da una corporation privata che si chiama per l'appunto Corporación América, appartenente al magnate argentino Eduardo Eurnekian e al figlio Martín. E con anche capitali degli Emirati Arabi che sono recentemente entrati dentro a Toscana Aeroporti e che appunto sono gran parte degli interessi. Gli altri grandi interessi sono ovviamente quelli di coloro che vivrebbero, diciamo, o metterebbero le mani su la fabbrica del turismo, che si potrebbe avvantaggiare di questa immensa nuova infrastruttura che permetterebbe di portare più gente su Firenze piuttosto che su Bologna o su Pisa. E quindi, insomma, mi sembrava comunque importante far capire o mettere in legame quello che accade o che vorrebbero accadesse su Firenze rispetto a quello che accade poco più in là, perché ricordiamoci che appunto Bologna è a 45 minuti di treno e a sua volta Pisa è a 40 e a sua volta ancora per chi fa viaggi ancora più lunghi, per chi viaggiava magari già negli anni 80 e 90 e si trovava a partire a volte da Roma Fiumicino, però insomma per le classi popolari, per coloro che viaggiano forse una o due volte l'anno e soprattutto in periodi in cui non riescono magari a prendere neanche i low cost, perché i momenti in cui si ha il tempo a disposizione sono poi quelli in cui i biglietti aerei costano di più, partire da Bologna, da Pisa o da Fiumicino non è poi così determinante. Questa è nostra assoluta convinzione, anche sulle nostre esperienze personali, che certamente l'aereo lo prendiamo, l'abbiamo preso, e magari a una valutazione così un po' superficiale, come su molte altre cose, c'è anche un certo piacere nel prenderlo e nel viaggiare, ma è una riflessione anche quella sull'uso di qualunque mezzo, sia rispetto all'uso della macchina in città o rispetto all'uso dell'aereo per le vacanze. È un dato di fatto che tutto questo oggi deve fare i conti assolutamente con i limiti fisici del nostro pianeta, limiti legati all'utilizzo delle risorse, perché come abbiamo detto tante volte gli aerei viaggiano bruciando carburanti fossili e non ce n'è, insomma non ci sono alternative credibili per adesso, e che gli aeroporti, insomma, sono strutture impattanti sia da un punto di vista dell'impatto acustico, che è quello più immediatamente percepito dalle comunità che vi vivono intorno, ma anche da un punto di vista dell'inquinamento dell'aria, perché soprattutto, come si sa, in fase di rullaggio e di decollo consumano quasi un litro di carburante ogni minuto. E certamente, insomma, se si prendono spesso in considerazione le macchine e il traffico automobilistico come causa dell'inquinamento atmosferico, non si vede perché dovremmo continuare a chiudere occhi, naso, bocca e capacità di ragionamento rispetto alla realtà del trasporto aereo. L'articolo poi prosegue diciamo con le sue caratteristiche: aspettiamo la pista da 50 anni, le infrastrutture portano sviluppo e occupazione, dice Luigi Salvadori di Confindustria. Gli fa eco il segretario della CISL Toscana Riccardo Cerza, che parla per la manifattura e il lavoro. I no aiutano il partito della rendita, le infrastrutture sono il motore del lavoro e ossigeno per l'economia. Mi sembra che questa veramente si commenti da sola. La pista è un fatto di civiltà, non solo una necessità economica, dice Antonella Manzi, la vicepresidente di Confindustria Nazionale, che è da, mi pare, l'anno scorso anche presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Quindi un fatto di civiltà, insomma, e gli fa eco per l'appunto ancora una volta, è una battaglia di civiltà, secondo il sovrintendente del Maggio, Cristiano Chiarò. Noi cerchiamo di dare sogni a chi viene. Lasciateci volare. Io credo che quest'articolo lo possiamo chiudere qui, e con questo anche direi la puntata di questa settimana, che ci ha permesso di fare un discreto punto della situazione su quella che è la situazione aeroportuale, chiudendola con questa citazione di Cristiano Chiarò, per cui noi cerchiamo di dare sogni a chi viene, lasciateci volare. Lasciate volare anche i comitati della Piana, i comitati della Firenze metropolitana, che vi danno almeno due appuntamenti delle prossime settimane. È un giovedì, il 7 di febbraio, alla Casa del Popolo, al circolo di Quinto Alto, comune di Sesto Fiorentino, ma per poco, perché insomma la zona di Quinto, quindi diciamo il collegamento tra Firenze e Sesto, dove ci sarà un'assemblea informativa con Antonio Fiorentino, che è un compagno, un amico, un architetto, un urbanista che da questi microfoni è passato più volte ed è stato più di una volta citato, che interviene come alterpiana proprio per spiegare e raccontare agli abitanti di quella porzione di città tutto il riassetto urbano, urbanistico, che è collegato all'aeroporto. Come sempre diciamo, aeroporto che non è solo aeroporto, ma nei progetti del PD e dei padroni della città è aeroporto, è Mercafir nuova edificazione nell'area Unipol, è cittadella viola con annessi e connessi, parcheggi, edifici, centri direzionali, case, alberghi, ostelli di lusso. Tutto questo lo racconteremo appunto il giovedì 7 alle ore 21 al circolo di Quinto Alto, dove pochi giorni dopo, cioè domenica 10, si terrà un bel pranzone, che è una gnoccata, anche questa diciamo è una ricorrenza come è stata la lotteria, perché per il secondo anno, con le patate di Montereale d'Abruzzo portate in vendita da Orto Collettivo di Calenzano, faremo degli ottimi gnocchi. E vi invitiamo chiaramente a prenotare, guardate sui social, digitate Assemblea per la Piana contro le nocività su Google e attraverso la pagina Facebook o il sito, cercate di prenotare prima che mangi tutto Bassiliga e Confindustria. E insomma, c'è questa gnoccata che non sostiene solo l'esperienza del presidio non cineritore in aeroporto, ma che comincia ad accantonare alcune, speriamo, centinaia di euro per organizzare il 23 marzo la trasferta degli abitanti, degli attivisti della Piana e di tutti coloro che tra voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat vorrete venire alla manifestazione del 23 marzo a Roma, già lanciata non solo dalla Valle che Resiste, ma anche dai movimenti, diciamo in qualche modo, più rappresentativi delle battaglie ambientali e territoriali, il No Muos, i No Triv, i No Tap, il movimento contro le grandi navi a Venezia e insomma e quant'altro, e anche chiaramente le reti contro l'incenerimento dei rifiuti, le battaglie per le alternative, la differenziata, il riciclo, il riuso, la rete rifiuti zero e molti altri soggetti che in questi anni hanno animato questi dibattiti e queste lotte, il 23 marzo a confluire tutti insieme in una grande, speriamo oceanica, manifestazione che ha un interessante avanzamento non solo contro le grandi opere, ma sarà il 23 marzo a Roma la marcia per il clima contro le grandi opere, perché chiaramente uno degli elementi che più abbiamo messo al centro delle nostre cronache, delle nostre critiche, delle nostre battaglie è proprio quello del cambiamento climatico, che è l'emergenza principale della crisi ecologica planetaria che stiamo attraversando e che non è più negabile da nessun punto di vista, e contro cui è inutile ormai ogni negazionismo, che sia quello di Trump, di Bolsonaro o che sia quello del nostro PD o della Lega o dei partiti, dei padroni della crescita e dello sviluppo. Il cambiamento climatico c'è, è urgente, importantissimo e irrinunciabile agire anche attraverso una più razionale messa in sicurezza del territorio e il rifiuto di grandi opere che servono interessi, appetiti capitalistici e non i bisogni delle specie che popolano il pianeta e del futuro della specie umana. Quindi questi sono gli appuntamenti, 7-10 febbraio a Quinto Alto e poi la conferenza dei servizi che del 6 di febbraio, vediamo come andrà, e poi insomma tutto quello che ne conseguirà. La lotta comunque va avanti, la Piana e Firenze non si arrendono e continuano a mordere anche se con denti piccoli, sperando che le nostre bocche crescano e che i denti affondino sempre di più nelle carni dei nostri avversari. Con questo un pugno chiuso a tutti e tutte, questa per chi si fosse collegato ora era Radio Wombat e questo lo spazio della stampa rassegnata che vi saluta alla prossima settimana. Ciao!